Secondo me i rifiuti sono la punta dell'iceberg di un modello di sviluppo che ormai non sta più in piedi e abbiamo ormai dei comuni che dimostrano che è possibile invertire proprio completamente la rotta. Il comune di Capannori in provincia di Lucca è in questo senso il primo comune in Italia ad aver adottato la strategia rifiuti zero. Che cos'è? È una strategia che è partita dalla Silicon Valley, dall'America, dalla California, in cui ci si pone l'obiettivo di non produrre più rifiuti, quindi non si entra neanche più nel merito della bontà o meno degli inceneritori e della loro necessità. Il Comune di Capannori ha adottato una delibera in Consiglio Comunale in cui si è posto questo obiettivo entro il 2020. Già oggi è arrivato all'85% di raccolta differenziata col sistema porta a porta, ha ridotto del 15% la produzione dei rifiuti rispetto all'anno precedente, ha ridotto le tariffe per i cittadini in un momento in cui quasi tutti i comuni italiani le aumentano, inevitabilmente, perché continuano a scegliere e reiterare la scelta delle discariche e degli inceneritori, aumentando quindi i costi sulle comunità, e ha soprattutto attivato dei progetti per la riduzione insieme ad altri comuni. Io cito anche sempre il comune di Colorno, che in questo senso fa un po' da spugna, che raccoglie le varie progettualità e le fa proprie, ad esempio sull'utilizzo dell'acqua del rubinetto per i bambini che frequentano le messe scolastiche, la distribuzione dei pannolini lavabili al posto di quelli usa e getta, l'utilizzo dei detersivi alla spina, progetti per il recupero e riutilizzo di beni e cose che vengono lasciate dai cittadini che altrimenti sarebbero diventate rifiuti e un costo per la comunità. C'è tutta una serie di progettualità, anche micro progettualità, che però messe in fila, messe insieme ed estese su larga scala dimostrano che la riduzione dei rifiuti non è un'utopia e la strategia rifiuti zero è una cosa in corso di realizzazione. Sì, quindi mutate ovviamente le dimensioni delle città, però la proporzione sarà sempre quella. Se a Capannori si è riusciti a fare il 15% in meno, può ambire allo stesso obiettivo una città più grande. Assolutamente. San Francisco ha il 72% di raccolta differenziata e San Francisco ha adottato la strategia rifiuti zero, quindi quando sento un sindaco che dice che non è possibile farlo perché lo si può fare in un piccolo comune ma non in una grande realtà, ecco, quella è la prova lampante che è possibile farlo. Negli altri comuni che aderiscono all'associazione, come si sta portando avanti il lavoro verso gli obiettivi di rifiuti zero? Siamo partiti cercando di promuovere in tutti i comuni iscritti alla rete e non solo il sistema di raccolta porta a porta, e soprattutto stiamo cercando di lavorare perché i progetti, gli esperimenti che stiamo facendo sulla riduzione dei rifiuti possano essere estesi nei nostri comuni, il latte alla spina, tutte queste progettualità che dimostrano che con poco e anzi a volte facendo risparmiare anche le casse comunali si possono attivare dei percorsi davvero virtuosi. Lei diceva prima della riduzione della tassa sui rifiuti, è un incentivo utile quello per il cittadino? È fondamentale, il nostro slogan è tu guadagni e risparmia l'ambiente, cioè in questo modo noi intercettiamo anche quelle persone che legittimamente possono essere non particolarmente sensibili al tema dell'ambiente, ma molto di più al tema del portafoglio, vista anche la situazione economica che stiamo vivendo. Questi progetti dimostrano che oltre a fare del bene all'ambiente si può risparmiare un sacco di soldi. In Europa qualche esempio positivo? In Europa esempi positivi ce ne sono, sempre stando a città grandi, penso ad esempio a Berlino, altre città della Germania o a città anche italiane che hanno cominciato a sperimentare su singoli quartieri, si adotta tra l'altro quello che dice la comunità europea, quindi recupero, riduzione, riutilizzo e solo come ultimo punto e come estrema ratio il discorso della discarica degli inceneritori. Invece noi a volte affrontiamo questi problemi capovolgendo l'ordine dell'importanza delle cose. E i termovalorizzatori in questo contesto sono sempre come ultima analisi meglio? Per quanto ci riguarda non c'è una grande differenza. Noi stiamo cercando di dimostrare che è possibile farne a meno e che in prospettiva anche quelli esistenti possono essere messi al bando, ecco tutto qua. Finché ce n'abbiamo bisogno, ecco, poi dopo a un certo punto se riusciamo a fare rifiuti zero non ne avremo più bisogno. Esatto, l'obiettivo alla fine è quello.